A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Pentito d'Indrangheta, Luigi Bonaventura, l'ha detto in modo esplicito. Controllare la squadra del proprio paese porta prestigio, crea consenso e getta le basi per il voto di scambio. Così fu quando i Giuliano condussero tra i vicoli di Forcella, nel ventre di Napoli, Diego Armando Maradona. Così è stato per chi ha accompagnato Super Mario Balotelli a Scampia. Questo voleva dire ancora per i clan entrare negli affari all'ombra di grandi stadi come l'Olimpico o di piccole realtà come la squadra di Sanremo. Ed è per tutto quello che le magliette dei campioni possono rappresentare che il calcio è diventato lo sport più amato dalle mafie, per dirla col sottotitolo di Football Clan, l'inchiesta di Raffaele Cantone, giudice in Cassazione, e Gianluca Di Feo. Perché oltre ai soldi tantissimi che muove, oltre alla possibilità che offre di avvicinare mondi diversi, il calcio permette ai boss di conquistare ancora più seguito. E questo vale quando in ballo ci sono campioni come Amsic del Napoli o piccole squadre della Calabria, di cui parla l'ultimo e un po' controverso pentito, sulle cui dichiarazioni di massima però Raffaele Cantone conviene. La fotografia del pentito di 'Ndrangheta è purtroppo fedelissima. Il calcio è uno strumento che mette insieme una grande capacità di generare consenso e quindi potere, ma anche una grande capacità di far muovere denaro e fare affari. Credo che sia difficile trovare un settore che metta insieme in modo così netto potere e denaro, che come è noto sono i core business della criminalità organizzata. Si è tradotto concretamente in tante storie tra i clan volta per volta egemoni e quelli che erano appunto le star del calcio. Una su tutto, imprescindibile come punto di partenza, la celeberrima foto di Maradona nella piscina a forma di conchiglia del boss Giuliano in ascesa. Partiamo da qui, dottore, da quei fatti che ormai sono lontani nel tempo ma che continuano ad essere ancora oggi un po' l'emblema anche plastico di che cosa voglia dire il legame tra la camorra o comunque i boss in generale e uno sport che crea consenso e muove denari come il calcio. Quelle foto sono state per lungo tempo quasi mostrate come un fatto oleografico di costume, sottovalutate nella loro portata criminale. Sia chiaro, io non credo affatto che Maradona sia andato a casa di Giuliano per ragioni criminali, ma Maradona va a casa di Giuliano in pieno centro storico di Napoli, a Forcella, in una zona super degradata, con ancora alcuni residui all'epoca del terremoto, una zona diciamo molto popolare, all'esterno assolutamente fatiscente nelle facciate esterne delle case e poi all'interno con queste case con le piscine a conchiglia, con le vasche idromassaggio. Per il Giuliano portare in quel momento Maradona a casa loro, e Maradona in quel momento è forse il calciatore più famoso del mondo, è una manifestazione incredibile di potere. E fino a qui tutto sommato forse ci eravamo arrivati tutti, ma Giuliano dopo che si è pentito ha spiegato come era lui il vero inventore del calcio scommesse all'epoca illegale e quale effetto particolare poteva avere su tutto il mondo criminale il fatto che l'autore del calcio scommesse potesse portare a casa propria il calciatore più famoso. Io ripeto, non credo affatto che Maradona sia andato lì per ragioni illecite, ma tutto sommato i Giuliani non avevano nessun interesse a coinvolgerlo. Bastava riuscire a portare l'icona del grande calciatore in quello specifico posto. Che cosa vi raccontò Giuliano? Giuliano racconta che in quel periodo il calcio scommesse riusciva a rendere fino a 2 miliardi e mezzo al mese. Stiamo parlando di una cifra che era difficile racimolare con le estorsioni e che quindi consentiva alla camorra tutto sommato di poter persino rinunciare alla violenza per poter gestire il calcio scommesse. E aggiungo di più, lui ha raccontato per esempio in qualche caso come gli stessi clan erano intervenuti per comprare i risultati delle partite, perché a loro interessava in quanto gestori. In un caso era andato male l'operazione, si erano prefissi e però imposero di pagare a quel calciatore 1 miliardo pena gravi conseguenze, cioè stiamo parlando di questo gruppo criminale. Lo schema che vi raccontò Giuliano all'epoca, lei in qualche modo lo ritrova anche nelle ricostruzioni che indagini più recenti sul calcio scommesse hanno portato alla luce? Credo che la situazione è completamente cambiata, c'è un elemento di un fattore nuovo che ha cambiato completamente tutto. Il calcio scommesse è stato legalizzato. Devo dire che questa legalizzazione è stata assolutamente rapida, senza che avessimo il tempo di digerire il passaggio da un sistema di divieto assoluto in generale del gioco d'azzardo a una legalizzazione a 360 gradi. Questo ha portato le mafie ad essere interessate al calcio scommesse sotto due diversi presupposti. Da un lato la gestione delle sale scommesse, delle agenzie che si occupano delle scommesse, che sono un incredibile strumento di guadagno, ma non dimentichiamo anche un incredibile modo per riciclare il denaro, per ripulirlo. E l'altro aspetto è la possibilità di giocare anche sui mercati internazionali facendo grossi affari e grossi guadagni. Quindi è un po' cambiata l'idea delle mafie che gestiscono le scommesse. Oggi le mafie sono inserite nel sistema delle scommesse legali. Diciamo in qualche modo a pieno titolo, siedono al tavolo di chi appunto è parte di questo affare. Sono seduti purtroppo a pieno titolo, anche perché c'è stata una grave distrazione da parte della normativa. Se io devo fornire un numero di penne a un comune per un valore di 10.000 euro, ho bisogno di dimostrare che sono lontano dai circuiti criminali e che ho una certificazione antimafia in tonza. Per gestire invece un'agenzia di scommesse, un settore notoriamente legato ad ambienti criminali, la certificazione antimafia fino a poco tempo fa non era indispensabile. Le immagini questo che ha significato, e nel nostro libro raccontiamo alcune ipotesi di presenze strane nel mondo della gestione delle scommesse. I fatti più recenti di Balotelli hanno dimostrato come, al di là del suo dichiarato intento, diciamo anche sociologico, di voler andare a vedere dal vivo quei quartieri così periferici come Scampia, sappiamo perfettamente che accompagnarlo in questo viaggio erano due uomini di due precisi clan: da una parte gli scissionisti, dall'altra un altro clan del Russo. Le motivazioni che muovono spesso i calciatori credo siano molto più banali di quanto noi stessi possiamo immaginare. Quando io leggo sui giornali che un calciatore famoso come Lavezzi passava i pomeriggi a giocare alla PlayStation con il figlio di Lo Russo, che attualmente è latitante, che era quello che è stato effigiato dietro la porta del Napoli, non so se sorridere o avere tenerezza. Cioè, un calciatore come Lavezzi, un uomo famoso, ricchissimo, passa i suoi pomeriggi con uno strano personaggio a giocare a PlayStation. Questo è il livello dei calciatori. Io credo che, diciamo, sia abbastanza veritiera, certamente veritiera la versione di Balotelli. Il problema non è tanto che Balotelli va a Scampia, e chi porta Balotelli a Scampia, e ovviamente il modo attraverso cui certi soggetti possono arrivare a Balotelli o ad Amsic o a Lavezzi. Cioè, voglio dire, la loro capacità di arrivare a personaggi anche così in vista e così famosi. Il tifoso normale ha difficoltà ad avvicinarsi al calciatore. Il tifoso normale non avrebbe mai la possibilità di uscire per una sera in compagnia di un calciatore, men che meno se si tratti di un calciatore famoso e men che meno se ci troviamo a Napoli. Allora la domanda vera è: quali sono le strade che consentono allo Russo Junior di andare da Lavezzi? Quali sono le strade che consentono allo stesso Lo Russo o, diciamo, ad altri boss di portare Balotelli a Scampia, o quelle che consentono al boss degli scissionisti di farsi la fotografia con Amsic, o diciamo, e potremmo continuare senza limiti. E qual è la risposta? Sono le strade dei soldi? Bisognerebbe capire che cosa c'è dietro e accanto alle società che non, quantomeno non impedisce questi rapporti ambigui, quantomeno non cerca di mettere argini, spesso anche per giocatori che vengono da altri mondi, che conoscono pochissimo la nostra realtà e che possono utilizzare persino come alibi questa scarsa conoscenza della nostra realtà. Lavezzi probabilmente non sappiamo neanche chi era, il figlio di Lo Russo. Qualcuno a Napoli avrebbe potuto preavvertirlo che certe amicizie erano tutt'altro che consigliabili. Lo stesso Maradona dice che vorrebbe tornare a Napoli, al di là delle sue vicende giudiziarie di altro tipo e di tipo fiscale. Sono ben lontani anche quei giorni in cui, dopo quelle foto, c'erano una serie, diciamo così, di profili anche da approfondire che riguardavano lo stesso Pibe de Oro. A un certo punto si pose per i suoi colleghi anche un problema di ordine pubblico. Questa è una vicenda che, devo dire, abbiamo scoperto successivamente, perché all'epoca, diciamo, si parlava di Maradona coinvolto in vicende connesse alla droga, ma tutto sommato, come consumatore, credere che Maradona potesse in qualche modo occuparsi d'altro credo sia fantascienza. Però di recente, in un'intervista data dall'allora pubblico ministero, che adesso è passato in politica, Gino Bobbio, ha rivelato, diciamo, che lui aveva persino proposto al procuratore Cordova dell'epoca di richiedere la misura cautelare, cioè di richiedere di arrestare Maradona. e Cordova all'epoca non glielo consentì. Onestamente la vicenda non ha i contorni molto chiari, io non conosco quella vicenda processuale, anche perché non mi risulta che poi Maradona sia stato neanche rinviato a giudizio, né tantomeno chiesto un rinvio a giudizio a piede libero. Però mi meraviglia che una vicenda del genere sia emersa poi così casualmente, cioè che c'era persino un pubblico ministero che avesse pensato di richiedere una misura cautelare. Qualche elemento vuol dire che emergeva sul piano non del semplice rapporto di consumo, quantomeno sul piano di sospetto. Resta però la stranezza di una vicenda annunciata dalla stampa a distanza di tanto tempo, ma non del tutto chiara nei suoi profili penali. Ma gli affari intorno al pallone possono diventare anche il cavallo di Troia per i clan per nuovi territori. Anche questo lascia pensare la storia della Sanremese, storia di infiltrazioni ma anche di morte. Questo conferma anche la storia di affari, scommesse e piccoli campioni a Cosenza, come sentiremo nella seconda parte di A ciascuno il suo. A ciascuno il suo. Si chiamava Giovanni Isolani, fu ucciso nella Sanremo dei Fiori e del Festival per una storia invece di affari e pallone. Riprendiamo da qui questa puntata di A ciascuno il suo sullo sport più amato dai clan, dalla Riviera dei Fiori macchiata il 16 dicembre 2010 anche dal sangue di un ragazzo. La sua morte forse è legata all'intimidazione subita poco prima dal giocatore più in vista all'epoca da quelle parti, Roberto Carlos Sosa, El Pampa. Nella Liguria, da anni frontiera delle cosche calabresi, questa storia diventa così emblematica, secondo il giudice Raffaele Cantone, di cosa voglia dire che il calcio sia lo sport più amato dalle mafie. Questo acquisto della Sanremese è il solito tentativo di un imprenditore di utilizzare il calcio per farsi conoscere in un ambiente molto effervescente dal punto di vista economico. Viene acquistata la Sanremese, vengono acquistati anche calciatori importanti, il famoso Sosa, il Pampa Sosa, che era un ex calciatore del Napoli, che aveva avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento della Serie A del Napoli. Ma a un certo punto il presidente si rende conto probabilmente di aver fatto i passi superiori alle sue gambe, di dover in qualche modo disdire i contratti, e utilizza i mezzi di convincimento che non sono quelli di Sanremo, ma quelli che assomigliano a quelli della Locride, per convincere, diciamo, i calciatori a recedere volontariamente, fra virgolette, dal contratto. Utilizza questo gruppo di calabresi che formalmente non sono collegati all'Andrangheta, ma che hanno, diciamo, sicuramente un modo di comportarsi di un certo tipo, per convincere i calciatori a recedere i contratti. E nell'ambito di questa vicenda poi ci scappa il morto. Ma vuol dire che certi metodi ndranghetistici erano abbondantemente arrivati anche nel salotto buono della città. E questa è la conferma di come in qualche modo anche la stessa cittadina di Sanremo non fosse così lontana e non fosse così, diciamo, un'isola chiusa rispetto a quello che nel territorio circostante invece stava avvenendo, come le indagini hanno più volte confermato, fino a portare allo scioglimento dei comuni. Cioè le infiltrazioni erano arrivate non solo anche in quella città, ma come lei diceva anche nel salotto buono della città, perché quando si arriva ad alcuni settori come quelli del calcio, che in qualche modo rappresentano comunque una forma di biglietto da visita di una città, è comunque un segnale di un contesto, di un appoggio nei confronti di certe logiche, è così? Certamente, io credo che il dato vero sia questo, cioè il calcio, al di là di ogni cosa, lo dicevamo all'inizio, è uno strumento fondamentale per avvicinare mondi lontani, per creare anche le ragioni ufficiali perché questi mondi si incontrano, si stringano le mani. Come un imprenditore riesce a diventare noto sul palcoscenico locale o nazionale? Quale miglior strada ci può essere una squadra di calcio? Presto l'Italia sotto questo profilo ha visto, io credo, una serie di esempi eclatanti dell'utilizzo del calcio come strumento di creazione del consenso. I gruppi dell''ndrangheta che acquistano varie squadre minori e che acquistano anche una squadra campana, il Sapri, A un certo punto questo gruppo dell''Ndrangheta, il figlio del boss, mi pare i Pesce, si occupano direttamente di 5 squadre ed è evidente che comprare una squadra in un'altra regione rappresenta un tentativo per sbarcare in una realtà, per esempio quella del Cilento, che è una realtà molto interessante dal punto di vista economico, forse anche tutto sommato abbastanza intonsa dal punto di vista criminale. Certo. Tu compri la squadra, diventi il punto di riferimento, hai ragioni ufficiali per incontrarti col sindaco, con gli assessori, con gli imprenditori della zona. Stanno cercando di rifare quello che un tempo Cutolo aveva fatto con l'Irpinia e con la squadra dell'Avellino. Di lì in realtà, diciamo, io credo che fu più che Cutolo a volere gestire la vicenda dell'Avellino, fu l'imprenditore, il proprietario dell'Avellino che volle provare ad accreditarsi nei confronti di Cutolo. E anche questo è esemplificativo, però, che fosse appunto il presidente della società a volere in qualche modo cercare l'abbraccio con il boss. Io credo che quella sia una vicenda purtroppo emblematica della sottovalutazione del fenomeno, cioè nel senso che quella vicenda fu ripresa dalle telecamere della RAI, il presidente è stato assolto, lui non è sicuramente estraneo, fu gambizzato un famoso giornalista RAI, Luigi Nicco. Quelle vicende furono effigiate dalla televisione, si vedeva questo ragazzino di colore che entrava spaesato in quell'aula di tribunale, che veniva più o meno costretto, in senso non materiale, a consegnare una medaglia d'oro come miglior tifoso a un boss. È evidente che lì c'è la necessità doppia di accreditarsi, quello è un momento nel quale Cutolo è al massimo dello splendore. E non c'è solo l'esigenza di Cutolo di accreditarsi, ma c'è probabilmente l'esigenza anche degli imprenditori di accreditarsi come referenti di Cutolo. E a volte con le squadre locali queste operazioni risultano anche più semplici rispetto chiaramente a delle squadre più importanti. Ho come l'impressione che ci sia una predilezione in particolar modo da parte della camorra campana nel gestire questo connubio di consenso sportivo e affari legati alle scommesse e anche a tutto quello che ci sta intorno al calcio, dai gadget alle contraffazioni, anche fuori dal proprio territorio, perché ad esempio, se non erro, sono proprio i casalesi ad un certo punto a cercare di mettere le mani, di infiltrarsi anche sugli spalti dell'Olimpico. Tra tutte e tre le mafie, la camorra ha sempre avuto una sua capacità di essere molto meno formalista, molto più immediatamente aperta alle novità, forse perché meno gerarchizzata, molto più libera dal punto di vista organizzativo. La camorra ha sempre in qualche modo anticipato una serie di trend, dalla gestione dello spaccio al minuto, che è sempre stato vietato in Sicilia o in Calabria, fermo restando si occupavano dei grandi quantitativi, alla gestione del gioco d'azzardo, diciamo soprattutto il calcio scommesso. Ma effettivamente i casalesi hanno tentato in qualche modo di entrare all'interno dell'Olimpico? Questo imprenditore, che dovrebbe, o è stato per un periodo latitante, di Ana, che era un uomo che secondo i pentiti aveva legami col clan dei casalesi e che operava nel settore della distribuzione del gas, ad un certo punto mette giù una cordata, si fa rappresentare da Chinaglia per cercare di acquistare la Lazio. E attenzione, c'è una vicenda che, diciamo, è emersa dopo, quando Lotito è stato sentito dai colleghi di Roma. Lotito racconta di aver conosciuto questo imprenditore che si sarebbe avvicinato a lui chiedendo di sponsorizzare un evento, non mi ricordo se è una Coppa Italia o una Coppa UEFA. Lotito dice che il personaggio non gli era sembrato proprio, diciamo, particolarmente entusiasmante, gli aveva sparato una cifra di 1 miliardo di lire, stiamo parlando di lire, per sponsorizzare un evento minore. E l'imprenditore non si era preoccupato e aveva detto: sì, però io questi soldi li voglio portare in contanti. Lotito aveva capito che, diciamo, portare soldi 1 miliardo in contanti non era proprio una cosa igienica, la cosa era saltata. Domanda: perché un distributore di gas dell'Alto Casertano, che non opera nel Lazio, ha interesse a sponsorizzare un evento della Lazio? E qual è la ragione per cui lui si fa capofila di una cordata che mette al proprio apice Chinaglia per cercare di comprare la Lazio? Quella è una vicenda assolutamente inquietante, anche perché mette insieme quel pezzo di criminalità con ambienti della città che erano un gruppo di faccendieri e ambienti della tifoseria legati all'estrema destra, che avevano tutta una serie di interessi nel settore del merchandising, un mix esplosivo. Un mix di elementi che ritorna uguale in più indagini, un mix di presenze ritrovato anche in Calabria in un'inchiesta sul Cosenza Calcio coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, che torna anche sull'ultimo pentito, Bonaventura. al di là del valore intrinseco che è costituito dalla squadra e dalle attività che questa svolge, che possono essere poi oggetto di ulteriori guadagni attraverso le scommesse, poi in generale le società sportive hanno un giro di affari che si concretizza ad esempio nella gestione dello stadio, nella gestione dei servizi all'interno dello stadio, che sono tutti oggetto di un particolare interesse da parte della criminalità organizzata. Quindi il calcio come appunto una grande industria utilizzata dalle mafie per creare consenso e per allargare i propri affari e anche per, diciamo, forse arrivare anche più di più anche al territorio, no? Perché sappiamo come il calcio viene utilizzato dai boss anche per aumentare il proprio prestigio e la propria presa sulla gente del posto. Ecco, anche in Calabria ci sono state diverse inchieste che in qualche modo hanno mostrato come intorno al calcio ruotino affari tutt'altro che puliti. Nel 2002 venne svolta una attività di indagine molto significativa che in qualche maniera conferma tutto quello che dicevamo all'inizio e che riguardò il Cosenza Calcio, che all'epoca militava, era un periodo di grazia tra la serie B e la serie C1. Venne accertato come un gruppo ndranghetistico operante su Cosenza, quello insomma dominante su Cosenza, il gruppo Cicero, aveva una sorta di società sportiva che imponeva come vivaio allo stesso Cosenza, che era costretto in qualche maniera a far giocare i ragazzi che questi soggetti avevano alle loro dipendenze. Vi erano state una serie di minacce nei confronti di giornalisti, di quei giornalisti che criticavano il Cosenza, che giocava ovviamente nelle condizioni in cui era costretto a giocare. Come molto spesso avviene per i giornalisti che si occupano e che denunciano soprattutto, diciamo, infiltrazioni oppure giri sporchi intorno al calcio, capita anche di recente. Infatti, è come dice lei, questo si ricollega a quanto lei osservava relativamente alla capacità del calcio di fungere da serbatoio di consenso. Non è casuale che numerosi dirigenti di società sportive poi, per esempio, si siano dedicati all'attività politica. Nel caso di specie, uno degli autori di queste minacce, che venne poi tratto in arresto, si accertò gestire anche un giro di scommesse, ma non si verificò però nel corso dell'attività investigativa se poi vi fossero o meno significative alterazioni delle partite. Quello che è certo è che anche in questo caso l'Ndrangheta cercò di esportare le proprie attività ed infatti il gruppo che gestiva in quel periodo il Cosenza si indirizzò verso l'Alta Italia e cercò di acquistare una società di antiche tradizioni, quale appunto la SPAL di Ferrara. Nome famoso. Non riuscendoci proprio in considerazione della emersione di queste attività illecite a seguito delle nostre attività investigative. In questa vostra inchiesta c'è l'Ndrangheta, quindi la componente mafiosa con l'infiltrazione del clan locale influente, una squadra di calcio e anche il giro di scommesse. La cosca Cicero, che era e probabilmente insomma è stata fino a pochi anni fa quella assolutamente dominante su Cosenza, riusciva a trarre guadagni sostanzialmente da ogni frammento di attività della società sportiva. Anche il risultato sportivo costituiva oggetto di ulteriori guadagni attraverso la gestione delle scommesse. Procuratore, è venuto fuori negli ultimi tempi anche il nome di un pentito o presunto tale di 'Ndrangheta, Luigi Bonaventura, che tra l'altro ha parlato anche proprio di calcio. Vi sono di aiuto queste dichiarazioni oppure no? In realtà abbiamo ovviamente svolto dei sommari riscontri, ma in questo momento non abbiamo delle specifiche attività su quanto dallo stesso riferito. A ciascuno il suo. Termine qui. Per riascoltare tutte le puntate il sito è radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce e su Twitter l'account è Raf Calandra, l'hashtag A ciascuno il suo. Ciao a tutti, al prossimo weekend.